Cantine di Franciacorta. Un saluto da Calino di Cazzago San Martino, siamo la cantina Montenisa, 300.000 bottiglie all'anno di proprietà della famiglia Antinori, una delle più antiche famiglie legate al vino in Italia, dalla Toscana alla Franciacorta per produrre bollicine. Sentiamo Leo Damiani a capo di Montenisa. In effetti Antinori 10 anni fa circa, nel 99, ha individuato nella Franciacorta una se non la zona per eccellenza per produrre un vino con le bollicine, proprio in virtù della storia che ha legato questa tipologia di vino con un vino che Antinori ha prodotto da 100 anni fa, che si chiama Nature, in qualche modo per continuare una tradizione che non voleva perdere, che non vogliamo perdere, e di conseguenza questo è il motivo per cui Antinori ha deciso di venire in Franciacorta. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.